Zanzara, parlo con la Zanzara. Ciao, 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male, cazzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Accidenti alle zanzare. Messo una sigla vecchia, Parenzo, una sigla molto vecchia della Zanzara. Sembrava di stare 3 anni fa. Beh sì, un periodo in cui tu iniziavi a venire in questa arena, iniziavi a frequentare queste zone. Sì, che ma... ancora non era diventato un basso fondo. Poi dopo. Madre, ma quale basso fondo? Ma di che stai parlando? Poi dopo con calma siamo riusciti a farlo diventare tale, con ma grande quale? Lavoro. Ma con grande lavoro. Grande lavoro. Mamma grande. Mia, cioè, tu devi denigrare quello che fai. Cioè, a parte, io sono conscio di quando. A parte quando... che i bassi fondi ogni tanto sono meravigliosi. Appunto, ogni tanto io frequentare. Quando scendo del basso fondo ne sono consapevole di scendere nei bassi sì, fondi. Sì, ma ogni tanto frequentare. Frequentare non semplicemente. Noi le persone snob, le persone altolocate, cioè c'è frequentare gente di mezzo, c'è anche gente di mezzo. Ma qui si frequenta di tutto, si parla di tutto, basso, medio, alto. Oh, a proposito di persone che hanno fatto, diciamo la verità, una figura di cacca, una figura di palta, una figura di M, come direbbe qualcuno. Poi c'è tempo per dire la parola merda, per pronunciare anche la parola C puntini puntini, che tanto, come dire, che tanto sconvolge alcuni sepolcri imbiancati. C'è tempo, siamo solo agli inizi, sono le 18.36. A proposito di persone che hanno fatto una figuraccia, una figura di palta, caro David, beh, questo è il ministro degli interni. Angelino Alfano, il quale, mentre un signore veniva preso e non c'era ancora lo stato di fermo ufficiale, twittava felicemente: abbiamo preso l'assassino di Yare Agambirasio. Capito? C'è proprio il marketing della sicurezza, come diresti tu, il marketing Bravo. Della sicurezza, dare, come dire, il segnale ai cittadini: abbiamo preso Yare Agambirasio. In realtà per questo non ci vuole il ministro degli interni, ci vuole semplicemente un poliziotto, un procuratore. No, ma sono due cose sbagliate. Alfano, che da ministro degli interni, che quindi ha informazioni privilegiatissime, dice abbiamo preso, lui non ha preso proprio nessuno, perché l'ha preso la polizia, e due, ha commesso una violazione di legge probabilmente. Ma non lo so, violazione di legge non lo so, insomma, comunque, sì, comunque il giorno dopo, il giorno dopo, lascia perdere l'avvocato Tormina, il giorno dopo cosa dice Alfano? Il giorno dopo cosa dice? Dice, beh, vale la presunzione di innocenza. La presunzione di innocenza vale per tutti e vale anche in questo caso, ovviamente. Quindi, come in tutte le circostanze in cui si commentano gli arresti, vale la presunzione di innocenza e io sono uno che ci crede particolarmente. Ho capito, la presunzione di innocenza, amico mio. Il giorno prima avevi scritto: individuato l'assassino di Yare Agambirasio. Così avevi scritto: individuato l'assassino di Yare Agambirasio. Capito? Infatti il procuratore di Bergamo a un certo punto ha detto: volevamo mantenere il massimo del riservo. D'altra parte non è l'unica volta in cui Alfano si espone facendo un po' marketing, ripeto, della sicurezza, volendo esporre forse più se stesso che altre cose, no? Ti ricordi il caso di una rapina in gioielleria, quando disse abbiamo sgominato una banda di rapinatori, ma gli investigatori volevano mantenere bassa la notizia perché le indagini erano ancora in corso. E poi un altro caso, c'erano 3 bambini che erano stati uccisi dalla madre, lui dice: stiamo dando la caccia all'assassino nei momenti esatti in cui la madre stava confessando. Convocherò immediatamente i vertici della polizia subito dopo la fine di questa trasmissione e certamente noi troveremo. Troveremo chiunque sia stato a realizzare questa. Perché questi drammi familiari spesso scoppiano all'interno delle famiglie. Ci sono tre bambini che sono morti e di fronte a questi tre bambini. Ma ti voglio più bene, perché mi tratti male, tra noi tutto è finito. A proposito della vicenda Gambirasio, senti cosa si ascoltava su Radio Padania nel 2011. C'era un appello agli stranieri, parlate. Senti. Come forse qualcuno saprà, a Brembate sopra è scomparsa da venerdì sera una ragazzina di 13 anni. È drammatica la situazione e noi così diciamo anche, esprimiamo, diamo voce a quel retropensiero che è in molti. Qui nella nostra zona ci sono parecchie aggregazioni di lavoratori, onesti lavoratori extracomunitari, specialmente nordafricani. Siccome il sospetto per il diverso è sempre un sospetto radicato, nel bene e nel male, spesso e volentieri senza nessun fondamento, talora con qualche fondamento, se qualcuno di loro, anche solo per mostrare questa volontà di collaborare, volontà di, che ti suggerisco io, toglie anche certi retropensieri che non sono belli, lo faccia. E alla fine sembra ovviamente, noi siamo super garantisti, sembra essere stato, anche se gli investigatori sono certi, un italiano. No, bergamasco, che è un italiano? Italiano, bergamasco, quello che è, insomma, italiano, sempre per me italiano, poi padano, sì, d'accordo, però. Sempre i signori della Padania. Anzi no, prima andiamo su Gasparri, il quale definisce il ministro degli esteri Mogherini una sciampista, anzi peggio delle sciampiste. Chiedo scusa alle sciampiste, Gasparri. Il mio giudizio critico verso la Mogherini è... Ma ha detto che è una sciampista. Ma secondo lei può fare il ministro degli esteri di un paese come l'Italia la Mogherini? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma lei l'ha definito una sciampista. Chiedo scusa alle sciampiste, ha ragione. Chiedo scusa alle sciampiste. A proposito dell'apertura di Grillo a Renzi, caro Parenzo, la proposta di legge elettorale bisogna leggerla perché ha alcuni dei 5 Stelle, ha alcuni punti estremamente comici che Maria Teresa Melli del Corriere della Sera ci chiarisce. Per esempio il fatto che uno può votare un partito e poi dare la preferenza a un altro, che ne so, uno vota PD e dà la preferenza a uno di Forza Italia. Voto disgiunto. E poi c'è la preferenza disgiunta, dai su. E poi la questione del voto negativo, cioè tu puoi dire quello non mi sta bene, ma di che stiamo parlando? Ma l'avete letta la legge elettorale dei Grillini? Benissimo, allora è una legge demenziale che porta all'ingovernabilità. Di che cavolo stiamo parlando? Non parliamo di Nigel Farage, non me ne frega nulla. Stiamo parlando di una legge che è una legge ridicola. Parliamo dei fatti. Utopistica. Diamine. Ma è con noi il senatore Antonio Razzi. Buonasera senatore, come sta? Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. David, inchinati no, subito, intanto, inchinati di fronte a sua eminenza Antonio Razzi. Dove Parenzo? Sono in Puglia, caro. In Puglia a farsi i cazzi suoi. Piove pure lì. Purtroppo non sono riuscito stamattina a fare il saluto al sole. Perché non c'era? Ha piovuto tutto il giorno perché qualcuno che sta a Milano, a Viale Monterosa, ha mandato quella che si chiama non la maledizione di Tutankhamen, ma la maledizione di Cruciani. Sì. E oggi ha piovuto. Prega per la pioggia. Tutto il giorno. Altro che saluto al sole. Saluto alla pioggia. Per le sciocchezze che dirai stasera. Quindi ma prego perché per sciocchezze? Ma falla finita. Io non ho mai detto sciocchezze, caro Davide. No, ma Razzi credo che sia uno dei migliori senatori che abbiamo noi in Italia. Diciamo non la verità. C'è dubbio, Grazie, caro. Assolutamente uno dei migliori senatori. Perché almeno... io dico le cose papale papale. Come dici le cose, scusa? Come dici, scusi? Papale papale. Cioè, sì, ho capito, papale. Cioè, dici le cose come stanno, vuoi dire, no? Bravo, bravo. Senti, l'hai capito, caro Giuseppe? Senti, Antonio, ma io voglio dire, cosa hai pensato? Io mi è venuto veramente un moto di rabbia sentendo quella vicenda di Motta Visconti con quello che ha ucciso le due bambine e la moglie. Ma... mamma mia, mamma mia, mi fa male il cuore a vedere magari forse bambino sì. Si è girato a salutare il suo papà e sì. Il suo papà bam una coltellata. Sì. Mamma mia, anche la bambina, anche la bambina mi sembra una cosa impressionante. Su questo sì. La legge non ci diciamo deve subito eliminare queste persone, perché altrimenti sì. Ne ripeterà e ne riuscirà ancora altre. Ma cosa aspettiamo? Cosa aspettiamo? Cioè, tu dici la legge subito la pena di morte? Ma dici. Sì, ma tanto quello già l'ha fatto, l'ha confessato che vuole il massimo della pena. Ma allora che gli dobbiamo fare? Cioè, gli dobbiamo fare un monumento pure? No, monumento no, che c'entra? Ma ci mancherebbe altro. No, monumento no. Tu dici per queste cose, quando ci sono in mezzo gli omicidi dei bambini, eccetera, eccetera. Guarda, è una cosa spaventosa, è una cosa che mi fa male tutto il corpo. Dici, sto male da quando ho sentito queste cose qui. Comunque... Guarda, queste cose è meglio non sentire. Eliminare queste persone, che fine stiamo facendo? Ma come eliminare? Che fine faresti fare a questa persona? Ma non dico la fine di Parenzo, perché no. Parenzo è un amico. No. No, però? No, però eliminarlo. Ma in che modo la pena di morte, tu dici? Con che tecniche? Guarda, in questi casi qui, caro Giuseppe, te lo dico da amico, sì. Bisogna rimettere veramente la pena di morte a questi casi qui. Perché questo è impossibile, che delle persone vanno in libertà, perché tanto troveranno sicuro una scamotage che lo faranno dopo di tanto tempo, se pentito, se cosa. Ma da dove pende? Ma che si pende? Ma è una cosa impressionante. Cioè, ma... Io lo dico come la penso io. Sì, dopo, beh, certo, ci sta tante altri fattori che sì. Magari non si può, bisogna cambiare, bisogna... Senti, diciamo, ma la pena di morte come? Tu dici con che metodi? In America ci sono vari metodi, per esempio. Ah, perché in America ci sta la sedia elettrica e camera a gas, scusate, ma perché... No, camera a gas non credo che ci sia, la camera a gas no, è quella della tendenza. Almeno ho sentito, io non lo so, io ma per fortuna sentito? Io non l'ho mai visto, mi sembra che una volta l'ho visto, diretto televisivo. C'è la puntura, l'iniezione. C'è la puntura, cioè, secondo insomma. Te che cosa faresti a questo tizio qua? La puntura, l'iniezione, la camera a gas, cioè la... Guarda, l'impiccagione, che ne so. Ma è qualcosa, basta che non c'è più. Basta perché che non queste c'è più. Persone non devono vivere. Perché come ha fatto a quello, magari se rimette a fare un'altra famiglia le farà ancora. Perché non si può così. Ma insomma, addirittura se ne va a vedere la partita come se niente fosse. Sì, ma è una cosa incredibile. Ma queste persone, non posso esprimere tutto quello che dovrei dire. No, esprimilo pure, qui siamo alla zanzara. Ma è così. Cioè, ma se ce l'avessi davanti, che cosa faresti questo signore? Ma guarda, me la mangerei, ma come ti permetti ammazzare quei due poveri innocenti che non c'entrano niente? C'entrano niente quei due bambini. Due bambini è spaventoso. Un attimo. Mi fa piangere a me, figura a quelli che sono più vicini o parenti che sono lì, i parenti vicini. Cioè, per questi casi estremi tu dici bisogna eliminare subito. Bisogna eliminare, non c'è nessuna pietà, via. Anzi, così, perché tanto lo metti in carcere costa. Chi lo paga il carcere? Lo pagheranno i cittadini. Noi, allora, non c'è dubbio, noi paghiamo, non c'è dubbio. Paghiamo tutto noi, allora scusa, è meglio che non si paga più, dice uno di meno, via. Well now, little mosquito, there must be well, some reason for you that I just can't. Caro Parenzo, era su tutti i giornali, non ti scaldare, era su tutti i giornali il verbale di interrogatorio di questo signore che si chiama Carlo Lissi, 31 anni, quello no, che ha ammazzato. Questo, aspetta, fermo, fammi leggere questo verbale di interrogatorio. Carlo Lissi, 31 anni, che ha ammazzato la moglie e i due figli. Allora, Premetto che voglio mi sia dato il massimo della pena. Sono stato io a uccidere mia moglie e i miei figli. Eravamo una coppia felice. Quella sera abbiamo messo a letto i bambini verso le 22, poi abbiamo fatto l'amore. Maria Cristina si è rivestita e si è messa a guardare la televisione. Io in mutande sono andato in cucina. Ho preso un coltello e sono tornato in sala. L'ho colpita, credo, alla gola, di spalle. Lei si è subito alzata e ha cercato di scappare verso sinistra. Io l'ho raggiunta e l'ho colpita nuovamente all'altezza del collo. Lei a quel punto ha cercato di prendermi il coltello afferrandomi la mano destra, ovvero la mano che impugnava l'arma. Allora l'ho colpita in faccia con la mano sinistra. Lei in tutta questa azione ha inizialmente detto no. Poi ha continuato a gridarmi perché, perché. Dopo che lei si è accasciata a terra, sono salito al piano superiore e sono andato in camera di mia figlia Giulia. La porta era aperta, ma lei dormiva, non aveva sentito nulla. Era a pancia in su. Ricordo solo che le ho dato una coltellata alla gola. Dopo che ho estratto la lama, lei si è girata di lato e così è rimasta. Non ha detto nulla. Poi sono entrato in camera da letto dove c'era mio figlio Gabriele. Anche lui dormiva e non si era accorto di nulla. Era a pancia in su e anche a lui ho dato un'unica coltellata alla gola. Parenzo, dimmi. No, ma questo, vabbè, in paesi, tu dici, pubblicati i verbali, questo è normale, da noi avviene, ma anche da altre, la cronaca nera fa parte del nostro giornalismo, mica solo da noi, in tutto il mondo, in tutta Europa, in tutto Razzi, il mondo. Razzi, a leggere America. Queste parole, a me fa a sentire, che a sentire. Ha già sentito quelle parole, già mi veniva la pelle di gallina, la pelle d'oca, come si suol dire. Di gallina, sì. Veramente una cosa impressionante, io qui non c'ho nessuna pietà. Nessuna pietà, basta. È inutile. Anche se la pena di morte ormai esiste solo in alcuni stati. Ma dopo, se l'ha detto lui, lui ha detto datemi il massimo della pena. Ma scusa, è il massimo della pena. Lo fai fuori e buonanotte, quello è il massimo. Perché tanto dopo se troverà un buon avvocato, sì. Alla fine con la legge che abbiamo tu in dici, Italia, fa, che la legge fa 25, ballerina, fa 25 è, anni è la legge via. Ballerina che va a finire che si farà qualche 5, 6 anni, 10 anni e poi gli starà fuori. Come normale, come quando che non è successo niente. E poi magari ne farà ancora altri, come di solito succede. E questo non va bene. Bisogna prendere provvedimenti. Fermare, perché se si riesce a... Perché a se quello è dimostrazione, se si riesce a dare una scopo dimostrativo, dici tu. La cosa agghiacciante non è tanto questo verbale che tu hai letto, che oggi era su tutti i giornali, va bene, d'accordo. La cosa agghiacciante è quello che dice questo ragazzo. Beh, ragazzi, a favore della pena di morte, adesso no, che vuoi fare? Ma è agghiacciante questo perché ma è a favore della pena di morte. Non è che è a favore. In questo caso è a favore della pena di morte. In questo caso proprio eclatante, su questo caso eclatante. Su casi che non si sa, non è, è chiaro che tu non puoi mettere la pelle di morte a uno che non, non lo sa, non si sa che. Senti Antonio, passiamo ad un'altra cosa, ma meno pesante. Ma tu per chi fai il tifo? Sono curioso in questi mondiali, per l'Italia oppure per la Svizzera dove sei cresciuto, dove hai fatto tante cose, eccetera? Antonio. Ma io guarda, sinceramente. Il mio desiderio è quello di vedere Italia-Svizzera in finale e poi naturalmente come Italia-Svizzera in finale è impossibile dai su. Lo so, è perché la palla è rotonda, rotonda un po' di fortuna non guasta. Vabbè, l'Italia e la Svizzera è più difficile, l'Italia e la Svizzera tipo Italia. Ma altro, senti una cosa, ma se l'Italia vince il mondiale che fai tu? Fai un fioretto se l'Italia vince. Se l'Italia va in finale, io vado a Lucerna in Svizzera a vedermi la finale. E perché? È perché il portafortuna io lì, perché nell'82 quando abbiamo vinto i mondiali ero lì. Nel 2006, pur che ero parlamentare, me lo sono visto lì in Svizzera e abbiamo vinto i mondiali. Nel 1994 abbiamo fatto la finale. Dov'eri? Ero a Montesilvano e abbiamo perso ai rigori. Porta sfiga Montesilvano allora. Allora per quello dico me ne vado in Svizzera che magari porta fortuna, magari porta fortuna e la Svizzera magari è lì ci mi porta. Senti, fortuna. Senti, ma tu l'inno l'Italia. Ma l'inno italiano lo sai o no? Come? L'inno italiano lo sai o no? L'inno italiano. Chiaro. Noi le posso dire, caro Giuseppe, dimmi, che gli italiani che sono all'estero lo sanno meglio degli italiani. Lo sanno meglio degli italiani, quando sentono l'inno piangono dalla gioia. Piangono. Piangono perché le emoziona l'italiano che vive. Ma com'è che fa sto inno? Le parole le sai o no? Le parole di sto inno? Come no? Fratelli d'Italia. D'Italia. Com'è? Io sono stonato, non posso cantare. Fratelli, però. Io lo canto quando mi trovo anche in una manifestazione. Vai, cantiamolo tutto insieme, dai, cantiamolo tutti insieme sto inno, forza, facciamolo partire. Parenzo, cantalo pure tu, fai un po' il patriottico, via. Ma lo conosco benissimo a memoria. Chi l'ha scritto, Razzi, l'inno? Chi l'ha scritto? Mameli. Ma dai, Parenzo, porta, ma che dove lì? Ma Parenzo, ma da dove vieni? Ma dove che pensi che questo è ignorante, su? No. Ah sì che sei Paduan. È Paduan? È Paduan. Fratelli d'Italia, l'Italia. Senti, com'è che fa? No, senti Giuseppe. Dimmi. Sai che la zanzara è seguita in tutto il mondo e da Boston, sì, in America, sì, lo stanno adesso in diretta a sentire. Cari noi, amici di Boston, un saluto, cari amici italiani di Boston che vi riunite apposta per sentire la zanzara. Qui c'è il vostro senatore Antonio Razzi, che ha detto che vuole la pena di morte per il signore lì di Motta Visconti. Ha bambini, ci mancherebbe altro. Beh, ci mancherebbe altro. Bambini. In Italia non c'è la pena di morte. Presenti un disegno di legge, Razzi. Lo so che non c'è la pena di morte, però in questi casi qui la giustizia deve fare giustizia. Vabbè, comunque io le dico una cosa, passando veramente ad un altro argomento, caro Razzi, ad un altro, a parte lei, per chi è? Per Buffon in porto o per Sirigu? Ma io sono per Buffon, perché a parte che è un mio idolo, no? Ci mancherebbe altro. Sì, sì. Però devo dire che Sirigu ha fatto bene. Per cui ha fatto bene. Alla fine, se torna Buffon, però Buffon, diciamo. Beh, è chiaro, ci mancherebbe altro. Senta, però, ma chi è che detta che abbiamo una riserva forte, all'altezza? Certo. Non è come l'altra volta che ha già fatto tutte le papere. L'altro, sì, Marchetti, là. Lo so. Antò, una cosa, ma chi è che detta la linea sui gay dentro Forza Italia? Hai visto che ha detto la Pascale? La Pascale ha detto che bisogna fare le unioni gay, i matrimoni gay. Ma io, come dico, mi so di rovigo, non mi intrigo. Queste sono cose che bisogna discutere. Per me, se due vogliono stare insieme, ci possono pure stare. A me che me ne frega. A me non mi interessa. Basta che non rompono i coglioni, dici. Basta che non rompa me. Faccio quello che vuole. Ciao, Antonio, a presto. Ciao. Perché io dico le cose papale. Papale. Parenzo, sei rimasto sconvolto da quello che ha detto Razzone? Fermati. Che c'è? Che è successo? Ho trovato una dichiarazione, sì, del 6 dicembre 2010 di un signore che si chiama Matteo Salvini, sì, caso sì. Iara Gambirasio. Dimmi, no, ma la conosco. Vado alla lettura di questa dichiarazione. La conosco questa roba. No, lo devono sapere i 2 milioni che ascoltano la zanzara. Dimmi. Lega Nord, credo che sia un partito che si occupi di secessione, indipendenza della Padania, non più. Immigrati, no, non euro, più. Giusto? Amici della signora Le Pen e tutta questa paccottiglia qui, no? Allora? Signor Salvini, 2010, sì, mentre il corpo della signora Iara non era ancora stato trovato, dice: troppi stranieri, ecco i risultati. Ora, questi leghisti, sì, dovrebbero chiedere scusa, sì, scusa, anzitutto alla famiglia Gambirasio, e poi ripetere ogni giorno a Radio Padania che il muratore che ha ucciso, diciamo ancora avrebbe, perché noi siamo garantiti, certo, avrebbe ucciso al sì, 99.9%, è un signore di Bergamo. Loro ogni giorno dovrebbero aprire le loro trasmissioni di Radio Odio dicendo: chiediamo scusa. Hai detto che Radio Padania è Radio Odio? A Radio Odio. Allora? A Radio Odio. Allora? Troppi stranieri, ecco i risultati. Matteo Salvini, credo che sia il segretario di un partito che si occupa di, no? Sì, è il segretario della Lega Nord, addirittura Belpietro, ricordo, addirittura che... Belpietro sul Libero scrive che dovrebbe essere il leader del nuovo centrodestra. Va bene, ma questo leader del nuovo centrodestra, d'accordo, va benissimo, questi sono altri temi. Io dico che il 6 dicembre 2010, sì, il signor Matteo Salvini, che credo abbia fa parte di questo partito dove avevano delle corna sulla testa, una volta, roba vecchia. Secessione, sì, no? Cos'era tutta quella, sì, quella roba, sì, là? Giusto, andavano su un prato. Giusto, tutto giusto, sì. Allora? E i Rom, sì, e gli albanesi. Bene, tutti i giorni dovrebbero aprire le trasmissioni della loro radio Odio, Radio Padania, sì, e dire: l'assassino della signora Gambirasio è un bergamasco. Dovrebbero dire questo. Fai vedere quanto è bella la tua terra. e Nabucco salirà alto nel cielo. A proposito, che accade su Radio Padania in queste ore? In queste ore. Senti, un qualche chicca di ascoltatori. Radio Padania, la nostra solita collection, amici miei, amici della Zanzara. Voi che siete in macchina, voi che siete sugli autobus, voi che siete soprattutto con le vostre amanti. Fra poco vi faremo anche un regalino. C'è una canzone più tardi, aspettate, una canzone che è diventata virale in rete. E per cui se avete dei bambini verso le 20:15, se avete dei bambini, se avete dei minorenni, delle persone che insomma hanno dei problemi o che non vogliono ascoltare certe cose, beh, Parenzo, cosa devono fare? Buttarli dalla finestra, metterli fuori dalla porta, metterli tappi alle orecchie, eccetera, eccetera. Intanto beccatevi Radio Padania. Sali Padania. Con l'invasione dal Nord Africa dei cariolanti, dei ciabattanti, e a dire il vero, in un certo senso, non mi dispiace più che tanto, perché l'Islam ha come tabù i cani, le scimmie e gli omosessuali. Quando i musulmani qui saranno la maggioranza, i cagnolini spariranno tutti nell'inceneritore. E quanto ai gay, già sappiamo come vanno a finire. Non è male, tutto sommato, la gente imparerà qualcosa. Ma cosa voleva dire questa? I gay come vanno a finire? Non ho capito, la gente imparerà qualcosa. Io fossi te non mi metterei a interpretare anche il pensiero di questi ascoltatori di Radio Odio. L'amico Pellegrin dice che è contento se Galan fa la galera da innocente. L'amico Pellegrin. Beh, si sa, quella è una culla di civiltà, quella radio. Su Giancarlo Galan io proprio garantismo no, per l'antipatia che mi suscita quel personaggio padovano lì. Se lo condannassero 10 anni ai piombi e poi risultasse innocente, io, meschino quel son, avrei ancora più gusto. Capito? Da quella radio ha dato i Natali a persone come Einaudi, come Don Sturzo. Quella radio ha dato i Natali a, come dire, all'avanguardia del pensiero liberale italiano. Di cosa ci stiamo stupendo ora, scusa? Perché ti stupisci? In quella radio esercitò le sue doti Benedetto Croce, ad esempio, no? A Radio Padania Libera. Di che ti stupisci? A forte e ancorata nella miglior tradizione liberale di questo paese. A proposito, mentre non ho sentito ancora alcun esponente della Lega, Salvini, aspetta un attimo, su. Ho capito, mi fai dire una cosa? Mentre non ho ancora sentito, fermo e stai zitto, non ho ancora sentito uno della Lega dire voglio la pena di morte, che ne so, per l'assassino presunto tale della Gambirasio, per quello di Motta Visconti che ha squartato i due bambini, cioè squartato, gli ha dato 2 coltellate in gola ai bambini, ai figli, e ha ammazzato la moglie che chiedeva a un certo punto pietà, cosa stai facendo, eccetera, e poi è andata a vedere la partita dell'Italia. Beh, oggi alla Zanzara, circa una mezz'oretta fa, caro Parenzo, è intervenuto il senatore della Repubblica Antonio Razzi, Forza Italia, il quale ha detto: io in questi casi qui voglio la pena di morte. Guarda, in questi casi qui, caro Giuseppe, te lo dico da amico, bisogna rimettere veramente la pena di morte a questi casi qui, perché questo è impossibile, che delle persone vanno in libertà, perché tanto troveranno sicuro una scamotage che lo faranno dopo di tanto tempo, se pentito, se cosa, ma da dove pente? Ma chi si pente? Guida il popolo nella tempesta. Vai, vai. Come una madre e un figlio. Ah, perché in America ci sta sedia elettrica, camera a gas, scusate, ma perché o c'è la puntura, insomma. Ma è qualcosa a base che non c'è più, perché queste persone non devono vivere. Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda, ma poi invece sa poco. Enrico, provincia di Udine. Pronto? Vai, dimmi. Ti volevo dire una cosa, volevo sapere se sei più scornacchiato tu o scornacchiato Parenzo. In che senso, scusa? In che senso ti spiego? Tu ti fai parlare, no? Quella innanzitutto, scusami Enrico, mi sembra che il tuo accento sia proprio esattamente della provincia di Udine. No, vivo qui. Di dove sei originario, caro Enrico? Di Pizzo. Pizzo Calabro. Sei enormemente terrone, dunque. Enormemente terrone. Tu sei un bastardo di prima categoria. In che senso, scusami? Perché tu fai parlare quella tempaglia, quella gentaglia che sputa minacce, che parla con Dreghe e tu gli dai corda. Tu proprio Ma chi sarebbe la Teppaglia, scusa, questa Teppaglia? Quel Federico di Roma, quello che c'ha tutto. Riccardo di Roma, Riccardo di Roma, bravo, quello zozzoso di prima categoria, ma bravo, questa gendaglia, tutta questa gendaglia che tu fai parlare. Bravo, bravo, bravo. Ma no, che intervengono come stai intervenendo tu, no, Enrico, no, da Pizzo, no, Calabro. No, però siccome tu sei talmente scurnacchiato che ma che vuol dire scurnacchiato? Che vuol dire? Dimmelo, tu in mezzo a questa palude cenate bene, fa parlare a tutta questa gendaglia, questi schifosi lì da parole, e dopo sputi contro quelli dei notav. Ma che c'entrano adesso i notav, Enrico? Dai, su. Tu fai benissimo il tuo mestiere, sei diventato radio radicale, fai parlare a tutti quanti, libero, viva. Ti posso dire una cosa? Scusa, però io voglio, sono ancora legato a questa cosa qua, sono ancora fermo alla parola scornacchiato. Cari amici, scornacchiato, cari amici calabresi, siccome Enrico dalla provincia di Udine, in realtà di Pizzo Calabro, mi ha dato dello scornacchiato, vorrei capire che significa, che sono cornuto? Ma a me piace essere cornuto, come sai. Su questo, come io non ti darei mai sta cosa. A te piace essere cornuto? A me no, a te ti piace. A me piace, ma a me di piace. Di prima categoria. Ma non so, ma scusa, però nulla di prima categoria, vuol dire di prima categoria, Enrico? Perché sei uno scurnacchiato di prima categoria. Ma che vuol dire scurnacchiato? Beh, che vuol dire scurnacchiato? Che sei l'essere che tu ti stassi quando tutta quella gentaglia si scagliano contro i gay e te non ti pare vero, quando senti tutte quelle... Ah, tu li fai parlare a tutta sta paglia, gli dai voce, a questi antisemiti, a questi contro gli zinga, ah, tu godi. Sì, questo è un po', non dico che è vero, però diamo voce. Ma anche a questo. Dai voce a questa pancia, a questa gentaglia. Tu lo sai che le parole sono pericolose, no? Ecco, è arrivato quell'altro adesso, è arrivato l'altro campione della cosa, quello che è estraneo a quello che è successo alla Zanzara negli ultimi anni, Parenzo. È arrivato ormai il campione del politicamente corretto, il campione dello Stato. Segnalo un'altra notizia. Saluto. C'è un altro caso là. Ciao Enrico, ciao. Qual è la notizia? Dimmi. Segnalo che c'è un altro caso cabobo nel milanese, accaduto poco fa. Peccato che questa volta è un italiano. Ancora? Cioè, che è successo? Uno che ha decapitato... Un altro caso cabobo nel milanese. Cioè? Uccide un uomo e ne ferisce altre due, l'hanno fermato. È un italiano in stato confusionale. Ora, in una giornata come questa, cari amici della Padania e non, caro signor Giuseppe Cruciani, che hai detto e costruito l'inferno sul signor Cabobo, che sicuramente deve stare in galera. Ora vi chiedo, ma lo chiedo soprattutto a questi amici di Radio Padania. Dimmi. Qualcuno vorrà dire qualcosa di questo signore che sembra addirittura essere milanese, che gira con un coltello? E cosa ha fatto? Cosa ha fatto? La stessa cosa di Cabobo. Ma è un po' diversa la cosa, perché... Solo che non si chiama Cabobo. No, magari non è un clandestino che è evaso da un centro di immigrazione per i clandestini. E tu insisti ancora. Certo. Fermi tutti. Direttore di radio, odio a te. Ti devono far direttore di radio. No, non ci tengo, non ti preoccupare, non ci tengo. Solo che non ho, come dire, gli occhi bendati. No, non ho gli occhi bendati. Ma ti pare possibile, Parenzo, che un tizio dell'ONU dica i giocatori devono fare coming out per forza? Cioè i giocatori di calcio, gli sportivi, devono fare coming out. Ma cosa c'entra l'ONU? Cioè l'ONU, ma cosa c'entrano? Soprattutto cosa c'entra il fatto che devono fare coming out per forza? Se uno vuole fare coming out, fa coming out. No, altrimenti non lo fa l'ONU. Ma l'ONU si occupa di tutto, è un ente inutile che dovrebbe essere abolito, cancellato, soppresso. Vabbè, inutile, fare... non credo. Inutile, se totalmente se inutile. Su questo non mi su ma questo l'ONU interviene su tutto. A proposito di ONU, di organizzazioni internazionali, tu sai chi faceva parte una volta di organizzazioni internazionali? Sì, la signora Boldrini, no? Signora Boldrini. Certo, come leggo no? L'alto commissariato per i rifugiati. Sì, per i rifugiati, certo. Leggo da qualche parte che la signora Boldrini, per migliorare la sua immagine... Per migliorare la sua immagine, amico mio, spero che non siano stati spesi i soldi nostri né per i viaggi né per gli spostamenti. Spero solo questo. Abbia incontrato la signora Boldrini. La signora Boldrini si è incontrata in un casolare, in un posto appartato, eccetera. Diversi personaggi. Qui ha chiesto: ma per quale motivo la gente mi odia? Per quale motivo la gente non mi sopporta? Ebbene, ha incontrato fatto il signor Gad Lerner, uno psichiatra, psicologo, non so cosa sia, che si chiama Recalcati, che si chiama Recalcati, Massimo Recalcati, una giornalista, sì, ma per carità, ma ti rendi conto, no, il presidente della Camera che... Camera può incontrare chi gli pare, ci incontra degli amici a cui chiede un consiglio, questo non mi pare una cosa grave, si può... Ma non sto dicendo che è grave. No, mi sembra molto più grave, invece dovresti concentrare la tua attenzione su questo cabobo italiano, sì, perché devi dargli lo stesso spazio che hai dato al signor cabobo di colore. Cioè questo cabobo italiano, sì, che magari tra un po' scopriremo che si chiama Brambilla, sì, Rossi, vabbè, allora, magari allora si chiama Cruciani, che ne, sì, sappiamo noi, sì, questo italiano, questo, sì, italiano che ha oggi fatto un nuovo massacro. Io vorrei semplicemente ha che ucciso la uno che ha fatto vorrei semplicemente che sì uno che doveva partire, sì, un 51enne che ha due sposato, dunque? Con due figli, no, dunque, il dunque lo dico io, dunque gradirei che quando la cronaca diventa strumento di lotta politica, specie per qualcuno, sì, per cui si sono strumentalizzati, il caso più grave è quello di Iara, ti ho detto cosa ha detto Salvini e lo ripeterò per tutta la settimana chiedendo agli amici di Radio Padania di occuparsi di questo caso e di chiedere scusa, sì, perché quando si usano i casi di cronaca per biechi interessi politici, per, sì, strumentalizzare odio nei confronti, vabbè, degli immigrati, tu ci vuoi... no, non va bene, devi dedicare adesso lo stesso spazio a questo cabò, perché non arrivano telefonate su questo cabò? Poi ti spiego, italiano? poi ti spiego. Laura Boldrini al castello di Titignano con Gad Lerner, Elena Montecchi e Massimo Recalcati, obiettivo rivedere la propria immagine. Volevo dire una cosa, ma scusate, ma che cazzo serve la comunicazione? Perché il presidente della Camera si deve rifare l'immagine? Perché deve comunicare? Dico io, perché il presidente della Camera deve tagliare i nastri, presiedere sedute e basta, e stare la maggior parte delle volte stare zitti, muti, silenti, Camera e Senato, uguale. Perché deve avere un ufficio di comunicazione che non so quanto costa, l'altro giorno c'erano delle cifre, perché? Ma cose superate, perché deve comunicare? Perché deve avere uno staff della comunicazione pletorico dove si spendono centinaia di migliaia? Perché il presidente della Camera? Perché non si capisce perché il presidente della Camera, con tutti gli sprechi che ci sono, deve avere, ma io lo dico anche per il passato, non so, lo staff della comunicazione deve migliorare la comunicazione, ma non c'è niente da comunicare, non c'è nulla da comunicare, niente. Oh, Alessandro Meluzzi è con noi. Eccomi. Buonasera, come stai? Buonasera, bene, ottimamente. Allora, io voglio capire una cosa, qui gli investigatori del caso Iara dicono: ha seviziato Iara e agito con crudeltà, coltellata più volte, il caso è risolto. Tu hai altre novità da questo punto di vista, caro? Il caso è avviato ad un'ipotesi di soluzione, perché il DNA, sì, è certamente una prova regina, ma non è né la confessione, che pure essa stessa non è una prova definitiva, né la pistola fumante. In nessun paese civile del mondo il semplice dato del DNA viene preso come l'elemento terminale di un processo, anche perché bisogna a questo punto costruire una storia. Se noi non capiamo la storia, se noi non capiamo cosa è successo, se noi non capiamo come è avvenuto, perché è avvenuto, quando è avvenuto e come è avvenuto, non si potrà fare un processo. Vabbè, questo sempre. Però un certo entusiasmo che io vedo in questi giorni. Ah, tu vedi troppo entusiasmo. Dici. Euforia da DNA. Ecco, l'euforia DNA di cui il mio amico generale Garofano è un sacerdote, è una specie di guru. Sì. Io credo debba essere un entusiasmo mitigato, nel senso che va bene il DNA. Però dobbiamo ricordarci molte cose pensando al DNA. Cioè? Per tutta questa vicenda, per esempio, del padre illegittimo, del probabile assassino. Ma voi sapete quanti padri ci sono, quanti figli ci sono che non sono figli dei loro genitori legali? C'è una statistica inglese. Sì, però qui si dicono certi. No, sono tutti certi tutto. Però voglio dire, l'unica cosa di cui non si può essere del tutto certi è innanzitutto per quale ragione su quel corpo ci sono anche delle tracce di DNA femminile. È stato detto, saranno le amiche... Questo quando è uscito fuori sta roba? Questo è uscito fuori già nel 2011. Può essere che siano potrebbe non essere stato solo, per esempio. Potrebbe essere stato in un contesto che non riusciamo neanche ad immaginare. Potrebbe aver avuto una parte in questa vicenda, ma non l'unica. Insomma, noi tu vedi troppo entusiasmo da DNA. Vedo un'euforia. Allora, se c'è tutta questa euforia per il DNA, io vi faccio una... Siccome vedo ovunque apostoli del DNA che elogiano i test al DNA come l'unica chiave di ogni possibile criminologia investigativa, sì, io vi dico, allora perché non facciamo una bella banca del DNA dove ai bambini non cominciamo a prelevare la nascita, il DNA, e la mettiamo nei documenti, lo mettiamo dappertutto. Bene, questa società a base di DNA, io non so se sarà un mondo migliore o un mondo peggiore. Considerato il dato del 12% di figli naturali che non sono figli dei genitori, sì, che credono essere i loro genitori, per esempio, questo potrebbe essere un bel colpo a quello che resta delle famiglie, per esempio. Senti, ma questa storia di Alfano, secondo te è stata una follia quella di Alfano, dire subito questo è il colpevole, eccetera? È una roba di marketing della, di marketing. Con tutto il rispetto che si può avere per il ministro di polizia, mi piace chiamarlo così, invece che questo agli interni, più alla francese, credo che sia stata una stupidaggine, soprattutto una stupidaggine, una superficialità e, diciamoci la verità, un po' una trombonata. C'è bisogno di impadronirsi immediatamente di un successo per avere un po' di visibilità. Però naturalmente, quando noi sentiamo la Procura della Repubblica che fa la morale di Alfano dicendo bisognava tenere riservati, sì, tutti i dati, anche loro, bue, dici anche loro, sentiamo il bue che dà del cornuto all'asino, come direbbe la favola di Esopo, perché veramente qui la storia è che viviamo da 50 anni, anzi, sì, perlomeno da 30, in una situazione in cui dalle procure esce di tutto e viene dato ogni volta in pasto ogni dettaglio, forse anche in questo caso. Senti, in questo caso, Parenzo, no, leggo dal blog, no, voglio di... dire a Meluzzi una cosa, però, perché prima, intanto lo saluto, prima lui, ciao, ha detto la storia, ciao caro, ti ho visto anche ieri a Segreti e Delitti, benissimo, quello che ti volevo dire è questo, tu dici manca la storia, è tutta da scrivere, cioè tutta manca il movente, ma la nostra storia, ma anche quella mondiale, di qualsiasi delitto, è piena di delitti senza il movente. No, non c'è ora... solo il movente, non c'è neanche la descrizione dei fatti. Vabbè, per adesso quello è, ora, l'hanno preso adesso. Ora, teniamoci alla scienza e al fatto che grazie a queste tecniche sofisticatissime, dopo 4 anni, comunque c'è, non dico una ragionevole certezza. Allora ti ho lanciato una provocazione, facciamo una banca del DNA nella quale tutti i cittadini debbano depositare i loro geni, dopodiché quando troveremo una traccia, anche per una volta, avremo risolto il problema, non è il modo migliore questo? Tu dovresti, non è, questa cosa non è la banca essere... universale del DNA, non no, è la, ma questa cosa del DNA dovrebbe essere talmente forte anche da essere, come dire, da stimolo per dire, beh, caspita, allora li beccano davvero i criminali, cioè potrebbe essere veramente un disincentivo a commettere. Senti, a commettere, io invece volevo... allora io lancio la provocazione dalla vostra fantastica missione, siete tutti, facciamo un referendum, siete tutti d'accordo a fare la banca universale del DNA? In maniera che di ognuno rimangano le tracce. Ma io sì, io sì. Perché no? Certo che no. Perché diventerebbe una insopportabile violazione della privacy. Dopodiché si deve sapere che grazie a queste nuove tecniche i criminali non hanno più scampo. Senti, Meluzzi, ti dico una cosa. Leggo su un blog molto seguito come quello di Alessandro Giglioli sull'Espresso, che si fa questa proposta: auguri di rapido pensionamento per psichiatri, psicologi ed esperti vari che oggi commentano le cause profonde che secondo loro hanno mosso gli assassini o presunti tali. Ovvio che i giornalisti li chiamino per riempire un paio di colonne. Bravo. Vuoti banesi loro se rispondono inoltrandosi in analisi su persone che non hanno mai visto e di cui hanno solo sentito qualcosa in TV. Non so voi, ma io non manderei mai un amico da uno specialista che cialtroneggia, bravo, sapendo di cialtroneggiare, al solo scopo di vedersi la fotina sul giornale. Forse si riferisce anche a te, che bene le trasmissioni. Ma è probabile. Comunque ringraziamo il giornalista Giglioli, che devo dire, come molti giornalisti e come molti uomini di comunicazione, quanto gigioneggiare credo che non sia secondo nessuno. Viviamo in una realtà, non in un paese, in un mondo in cui gigioneggiano i politici, gigioneggiano i giudici, gigioneggiano gli psichiatri, gigioneggiano i giornalisti, gigioneggiano financo i protagonisti dei crimini, che diventano immediatamente gigioneggiati, finiscono persino col gigioneggiare i parenti delle vittime. Quindi direi che in questo gigioneggiamento, prendersela con i soli psichiatri mi pare riduttivo. Senti una cosa, ma tu sei ancora... Innanzitutto c'è molta gente che ci chiama dicendo io questi qua li impalerei, cioè questo qua per esempio di Motta Visconti, questo qua che ha ammazzato due figli eccetera, io lo ammazzerei, per alcuni casi ci vuole la pena di morte, ce l'ha detto prima il senatore Razzi, altri lo dicono, molti lo sentono e lo vivono dentro, cioè la soppressione dell'uomo, tu che ne pensi? Sono in totale disaccordo, credo che gli stati non abbiano alcun diritto sulla vita, cioè non possono sopprimere la vita, perché la vita è un valore sacro anche per gli stati nazionali, anche per le entità etiche di qualsiasi natura. Quando poi si pensa per esempio a cose come la castrazione chimica dei pedofili o non chimica o alla loro uccisione, allora io vi dico un paradosso. Siccome il 95% dei pedofili sono stati dei bambini abusati, per eliminare completamente la pedofilia converrebbe sopprimere immediatamente i bambini abusati, almeno in questo modo abbiamo... Vabbè, questo è un paradosso, dai. È questo... un paradosso, ma per dire, quando si riflette su questo si capisce che la pena di morte, questi tipi di interventi crudeli, sono sempre la negazione del bene che dicono di tutelare. E quindi sono in totale disaccordo. Senti, e sei ancora convinto invece, perché siccome si sta parlando molto di nuove leggi sull'unione omosessuale, sui gay, che uno che è omosessuale si possa guarire? Tu l'hai detto più volte. No, guarire. io non ho detto il fatto di queste cose, io ho detto che la maggioranza degli uomini sono bisessuali, e se essere bisessuali rappresenta un problema, questa bisessualità volendo può essere in qualche modo indirizzata. Ma se che vuol dire indirizzata, scusa? Vuol dire che se io sono un buon padre di famiglia, come un famoso presidente di una regione italiana, allora? Che ogni tanto per essere contento ha bisogno di andare con i trans, e se io riesco in qualche modo ad evitare che questo accada per non avere conseguenze. E in che modo? Tu hai curato, cioè sono venuti da te alcuni che sono omosessuali? Sono venuti da me molte persone che avevano il vizio di andare con prostitute, con trans, che io ho curato perché era un comportamento sessuale. Ma quella è un'altra cosa, ma qualcuno ti ha detto io sono omosessuale, voglio guarire? No, io, è venuto a me qualcuno che ha detto io voglio poter sperimentare un rapporto eterosessuale perché desidero farlo. Fino ad ora ho talmente avuto paura che le donne che non sono riuscite vorrei provarci, qualcuno ci è riuscito. E questi qua erano gay, diciamo? Non so che cosa fosse, erano persone che però con le donne... Cioè, secondo te... Io voglio ricordarti una cosa, caro, che nel mondo greco-romano la bisessualità era la regola. Quando Cesare viene portato dentro Roma... Cioè, noi siamo allora, naturalmente bisessuali. Non è che lì non ci fossero gli omosessuali, ma non erano quelli che andavano con le persone dello stesso sesso, ma erano quelli che non riuscivano ad andare con le persone di sesso diverso. Per me è un grado di libertà in più quello che propongo, non un grado di libertà in più. Perché un grado di libertà? Possibile che delle checche bigotte non lo capiscano, cioè, perché è un grado di libertà in più, perché se uno non riesce ad andare con persone dell'altro sesso e vuole provarci, perché non provarci? Che carattere di bigottismo è? No, questo d'accordo, però tu dici che uno che è omosessuale può guarire, cioè può... Ma carino, io non userei mai la parola guarire, dico che uno che è omosessuale può sperimentare anche cose completamente diverse da quelle che ha sperimentato, compresa la castità se vuole. Scusa, ho compreso un rapporto con persone di sesso diverso. Se un padre ti porta un ragazzo dicendo questo ragazzo qui ha tendenza omosessuale. No, questo non lo farei mai, perché intanto non è questo di tendenza omosessuale. Un ragazzo intanto molto spesso è uno che ha bisogno di definirsi, e quindi se credi aiutarlo a definirsi innanzitutto, e deconflittualizzerei nel tuo rapporto con la tua famiglia. Questa è la prima cosa. Va bene, io ciao. Guarda, sono tutt'altro che omofobo, perché sono un libertario. Beh, più volte però hai detto, una cattolico volta mi ricordo... Cattolico libertario. Cattolico libertario, cioè sei a favore del matrimonio gay? Io sono, come dire, tendenzialmente contrario al matrimonio che non sia quello sacramentale, quindi... Tutti i matrimoni che non mi sembrano un sacramento mi sembrano una stupidaggine. Come sono d'accordo con Busi quando dice tutto questo casino per avere una suocera. Questo pure è vero, eh. Ciao, a presto, ciao, ciao Alessandro, ciao. Marco Ferrara, Marco. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Praticamente lei mi ha bruciato l'intervento. Cioè? Perché uno di quelli che volevo dire è che quel mostro che ha ucciso moglie e figli praticamente dovrebbe soffrire. Dovrebbe soffrire, che cosa vuol dire? La morte in faccia. Dovrebbe vedere la morte in faccia. Mi spieghi un attimo cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Deve chiedere pietà. Vabbè, ma pietà è la tecnica del conte Dracula. E qual è la tecnica del conte Dracula? Scusi, se io. Quella di impalarlo. Impalarlo, ecco, questa c'è un'altra variante, caro Parenzo. Impalare. Si dice impalamento. Impalamento. Lei come lo impalerebbe? Cioè a secco, a vivo, cioè vivo. Come faceva il conte Dracula, che usava, mi pare, dell'olio o del grasso per far scivolare meglio. Il grasso per far scivolare. Sì, ma erano tecniche, appunto, usava il conte Dracula, semmai le utilizzava, in un'altra epoca storica, si va anche avanti, è vero che ci sono alcuni paesi che hanno la pena di morte. Insomma, io capisco che uno che ammazza, anche a me viene l'istinto di dire, vabbè, ma perché questo perché non scompare? Cruciani, perché non scompare? Perché non si volatilizza questo signore che ha ammazzato a coltellati due figli e la moglie? Dopodiché non è possibile, perché dimmi. No, il problema è che ha ucciso a sangue freddo proprio mentre dormivano i figli. Ho capito, ma anche se l'avessi ucciso a sangue caldo, non è cambiato qualcosa, cioè, a sangue freddo o sangue... Sì, come fai uno a uccidere anche volendo un pasto? Uno che vuole uccidere, lo uccide proprio, lo guarda in faccia mentre vivo, mentre uccide. Ho capito, a sangue freddo, certo, quelli dormivano, lei dice li ha uccisi in modo vigliacco, ancora più vigliacco. Praticamente sì, vabbè, ho capito. In modo molto più vigliacco. Ok, Marco da Roma, Marco. Non si risponde a bestialità con altra bestialità, è chiaro che questa che è la differenza che c'è tra gli animali e lo stato civile, il famoso contratto sociale, quando si vive in una civiltà, in un posto in cui c'è lo stato di diritto, gli animali non ci si comporta da animali. Stai dicendo che Marco da Ferrara è un animale? Ma non occorre che traduci, è evidente che è un animale. No, ma lo sto dicendo, è evidente che è un animale. Marco, le ha dato dell'animale, c'è ancora? C'è un istinto bestiale che tutti non ricuori. C'è più. Marco da Roma. Ma è chiaro che è un istinto bestiale. Ma io non tiro bestiale. Fuori niente, faccio parlare alla gente. Marco da Roma, dai. Ma è un istinto secondo bestiale voi, quello. Questa sera avete lasciato fuori dal vaso, perché non potete invitare Razzi a commentare questi fatti di cronaca. A parte che noi facciamo il cazzo che vogliamo, scusi Marco, se glielo dico. Sì, voi fate quel che cazzo volete, che a volte pisciate fuori dal vaso. Ma qua probabilmente se spesso. Va bene il teatro, va bene tutto, io vi ascolto per questo. Però invitare Razzi a commentare questi fatti di cronaca è una cosa è indegna, ma oddio, meno, mamma mia, che... Allora, diciamo che non mettiamoci di mezzo l'etica, è di cattivo gusto. A parte che noi siamo i maestri. Il problema non è quello che dice Razzi, perché uno lo sa cosa dice Razzi, il problema siete voi invitate questa sera a parlare di questo, sì. Perché questa è una cosa triste, è mal riuscita, è proprio un pisciare fuori dal vaso, non è venuta bene, e tutto questo poi ha dato il tono di una discussione in cui gli interventi sono un po' tutti sulla scia di Razzi, cioè lei si sente sulla scia di Razzi, Io ero incazzato all'inizio quando l'ho ascoltato, poi mi sono un po' dispiaciuto, poi mi ero quasi dimenticato della questione. Ecco. Vabbè, ho capito, ma Marco, a parte che qui i mostri vanno bene, ma non è che vanno bene sempre. Ma ho capito, ma adesso non facciamo però la disamina, io lui, voi avete chiamato Razzi a commentare sta cosa, adesso se non trovavate una chiave per parlare di questo argomento potevate anche non trattarlo. Senta, però adesso qui non stiamo. Lei è un'assurdità. Alla gente sentire la discussione su quello che noi scegliamo di fare non interessa questa roba qua, Marco. A me interessa. Ma sì, va bene. Sentire, commentare queste tragedie da uno che non si sa neanche bene, a parte che non sa neanche parlare, ma non neanche quello che dice, cioè neanche il contenuto è ben chiaro. È una cosa che mi dispiace perché, ma non per voi, non perché io sia un esegeto, mi dispiace perché non è rispettoso di questa tragedia. Non è rispettoso di questa tragedia, poi voi non contate niente, non è rispettoso della tragedia in sé, di quello che è successo, che è una roba terribile, sì, terribile, certo. E si finisce a parlare. È un senatore della Repubblica. Sì, lo sappiamo tutti come senatore. Marco, a parte che lo sa lei come senatore, anch'io lo so. Lo sapete anche voi, lo sanno come tutti gli altri, anzi forse meglio di altri, perché qualche volta, una volta credo sia stato eletto addirittura con le preferenze. Dunque, qualche cosa in più degli altri che non sono stati eletti quasi mai con le preferenze, ce l'ha. Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa, ma poi invece s'appoggia proprio addosso a me. Io lo dico come la penso io. Amico mio, lì te lo dico da amico, gatta cicova lì. Sa maledetto che ha detto che non si può spruzzare lì di lì. Giulio da Venezia, eravamo con Marco da Roma, dai. Marco, allora? Allora il punto è sempre quello, insomma. Cioè, avete invitato Razzi, che secondo me non è. Cioè, non c'ha una caratura politica, non c'ha niente da dire. Ma quella è la sua opinione su Razzi, chiunque ha da dire su questo. Cioè, un senatore della Repubblica che guarda quello che succede nella cronaca, eccetera, un caso di cui parlano tutti, assino di Motta Visconti. Sì, ma anche punto. Tutte quelle spigolature che diceva, lui si immaginava la scena, tutte cose che sono proprio di cattivo gusto, sono proprio cose che non c'è niente. Questa è l'idea mia. Sì, per carità, infatti la esprime tranquillamente. Gianmarco da Napoli, Gianmarco. Silvia, mi sentite? Sì, dica. Ha ragione l'amico Terrone, come te, che siete degli scornacchiati. Sì. Ha una grandissima ragione, perché innanzitutto invitate Razzi, che è come sparare sulla Croce Rossa, praticamente. Lo invitate per fargli fare una figura di niente, è ovvio. E insistete sull'argomento per fargli dire viva la pena di morte, condanniamo questo a morte. E mettete in mezzo un argomento così delicato. E non c'è bisogno di andare a toccare queste cose che, insomma, hanno sconvolto un po' tutti. Vedete quanta gente vi sta chiamando per far fare una figura di niente a Razzi, che la fa benissimo da solo. Perciò siete scornacchiati, avete capito? Va bene, ho capito benissimo. Alessandro da Fermo. Buonasera Cruciani. Sì, dimmi. Io non cambio un po' un attimo l'atteggiamento. Razzi mi ha fatto solamente che ridere e mi fa rendere conto comunque dell'elevata intelligenza di parecchi politici italiani che poi si permettono di dare dello xenofobo a Farage o altri del Movimento 5 Stelle. In più ho chiamato soprattutto perché non sopporto più questo atteggiamento superbo da parte di Parenzo di sentirsi comunque in qualche maniera nella parte più giusta e tirare fuori delle cose sulla Lega, in un contesto differente, e quindi non hanno proprio testo in questa fase in cui c'è questo attentato su Milano, in cui c'è attentato, che attentato c'è, scusi? Attentato alla fine alla sicurezza delle persone, quindi alla fine tutti quanti stanno in allarme adesso in questo momento. Ma qual è questo attentato, scusi? No, scusi, forse ho sbagliato la parola. Ma che vuol dire attentato? Lei ha mischiato due cose, Parenzo, no, che è spocchioso, poi parla dell'aggressione di questo cabobo italiano, quello che è l'episodio di cronaca che è avvenuto alla pompa di benzina, questo credo, immagino faccia riferimento. Ma non ho capito niente, mi spieghi bene. Allora, spiego che comunque questa aggressione che è stata a Milano non può essere paragonata alle varie discussioni che si trattano in merito a immigrazione, a quello che può portare. È esattamente quello che ho detto, non si usano le questioni legate agli immigrati per strumentalizzare casi di cronaca, e l'ho detto non come paradosso, dico il caso che c'è stato oggi di questo cosiddetto cabobo italiano, cioè di un assassino che ha usato le stesse modalità del matto cabobo, gradirei che Badani, Cruciani e altri che su questi per giorni ci hanno costruito delle cose su questo cabobo migrante che ha fatto quella strage terribile, quel matto, quel pazzo, quello psicotico, chiamatelo come volete, io dico semplicemente che non è che siccome è immigrato merita più attenzione, perché ho detto 2 milioni di volte che chi commette un reato, sia esso bianco, azzurro o di colore, questo è il fatto. Simone da Roma, Simone da Roma. Sì, ciao, proprio sulla scorta di questo. Dimmi. Volevo dire appunto in merito a quanto diceva Parenzo che l'altra ulteriore, diciamo, ineguaglianza degli spazi sui giornali è proprio il fatto appunto della malattia che è riconosciuta giustamente come un attenuante se non rende, no, non perseguibili gli autori di un reato, per quanto tremendo esso sia. Esattamente. E da psichiatra, insomma, ora sentivo prima i commenti sugli psichiatri, non ho valutato direttamente i tuoi casi. Insomma, il comportamento di Cabobo era francamente psicotico. Adesso non lo possiamo sapere, dai, su, lei come fa a dirlo? Non è che davanti alle cartelle cliniche, eccetera, dai, su. Cartelle cliniche, ma uno che sente voci, insomma, non è proprio lucido. Sì, vabbè, uno può inventarsi. Dopo aver ammazzato tre persone, va a guardare la partita, lo è un po' di più. Sì, va bene, ma al di là di questo, adesso non è un problema questo di fare il paragone tra il caso Cabobo, quell'altro che ha ammazzato col coltello, quest'altro caso Cabobo nel milanese. C'è una differenza comunque, perché quando nel caso di Cabobo comunque questo qua veniva da un centro per gli immigrati. E cosa c'entra? Ma c'entra, come no? Poi ma certo le modalità dell'assassino sono uguali. Vabbè, ma allora, cosa c'entra? È uguale, va bene. Come è quello di oggi, come l'aggressore fermato dalla polizia oggi nell'autolavaggio. Carlo da Roma. Ma io non sto alimentando nulla, sto parlando di fatti. Smettila con questa cosa che sto alimentando. Non sto alimentando niente. Va bene, d'accordo. Allora, uguale. Il caso di un clandestino che arriva qui, va in un centro di immigrazione, fomenta una rivolta, scappa in piena libertà per l'Italia e ammazza tre persone, è uguale a quello di una famiglia oppure di uno che è già in Italia e che accoltella le persone. Uguale, identico. Benissimo. Balsamo di oggi per le dinamiche. Va bene, uguale. Al famoso caso Cabobo. Piccola, ma sarà identico nelle dinamiche, certo, certamente dinamiche, no, e probabilmente nella follia della persona, no, se abbiamo sì, certamente non nel fatto che quello era un clandestino che non doveva stare in Italia e che quando è stato, ma quando cosa va bene, non c'entra nulla, ma no? Certo che sia un criminale, questo è scontato. E allora? Andrea da Milano. Andrea? Sì. Dica. Sì, parli più alto, però sennò non sentiamo niente, su. Ah, va bene, scusi, niente. Volevo soltanto dire la mia opinione a proposito, perché pena di morte sì, pena di morte no. No, noi non abbiamo impostato pena di morte sì, pena di morte no. No, so. Vabbè, comunque lei può dire quello che vuole, su, via. Ma niente, io volevo soltanto riguardo al diritto di moto Visconti, quella persona lì. Farei come faceva una volta certa gente, lo darei in pasto ai maiali, vivo. In pasto ai maiali. Ecco qua. Sì. Tranquillo. Vivo in pasto ai maiali. Certo, non merita altro, un essere così non è un essere, no? Non può essere un essere umano, una persona. C'è uno che ammazza i due figli in quel modo, la moglie, eccetera, eccetera. Non esiste. Io penso che neanche... Cioè, ma lei come se la immagina questa cosa di darlo in pasto ai maiali? Cioè, lei pensa dei maiali che sono lì, di quelli attrezzati, diciamo, per... No, guarda, guardi che non è una cosa che mi sono inventato, la mafia fa queste cose. Appunto. La mafia la fa. ho fatto, ho capito, ma per dirti, no? È una cosa brutale, giusto o no? Beh, che sia una cosa brutale non c'è dubbio, come, come è stata una cosa brutale quello che ha fatto lui, è una cosa brutale anche questa, però uno non è che può dire benissimo, adesso lo prendiamo e lo diamo in pasto ai maiali. Sì, chi di spada ferisce, di spada ferisce, di spada perisce. Sì, sì. Ma chi ha detto questa roba? In quale società questo qua? In questa società, un essere del genere, sì, è una cosa, ha fatto una cosa che neanche una mente umana, la più, più, più fantastica che ci possa essere, può mai immaginare un delitto così. Mm. Nessuno, ma guardi che purtroppo la storia e la letteratura è piena di questa roba. Del genere. Ma chi, purtroppo la storia e la letteratura è piena di questa roba qua, dalla notte dei secoli purtroppo, cioè il male fa parte della società, mi capisce o no? Cioè adesso pensare che sia tutto, che esiste il mondo perfetto, non c'è. Fammi sentire, il... questa, fammi sentire quest'altro, Marco da Bergamo. Sì, sì, salve, buonasera. Dimmi Marco. Senta, niente, no, io dicevo soltanto una cosa, facevo una considerazione da solo prima. Sì. Certamente alimentiamo con tutto questo chiacchierare di disgrazie, di omicidi, di gente che muore e di pena di morte e di punizioni e di razzismo e di femminismo e di tutto quello che gli va dietro. Stiamo contribuendo a far diventare questo in maniera ulteriore un mondo di merda. Cruciale, lei ha la sua responsabilità. Guardi. È un uomo. Ma no, lei ha la sua responsabilità, glielo dico davvero, sì, con tutto il cuore, anche con un po' di dispiacere, perché a dirle la verità... L'ho, ma qual è la responsabilità? Scusi un attimo. No, la responsabilità è quella di fomentare circa la pena di morte, circa... Fomentare? Ma è una vita che noi facciamo, sì, parlare, no, delle persone, no, che dicono, no, che ci vuole, no, la pena, no, di morte. No, qual è? Fomentare cosa? Affermazioni. No, lei fomenta, lei fomenta. Io fomento, io ho chiesto delle cose... Lei ha letto lì in apertura di trasmissione, sì, sì, i verbali dell'interrogatorio. E allora c'erano sui giornali, erano da... ma allora un cazzo, allora no, veramente un cazzo, perché chi fa informazione dovrebbe, sì, occuparsi prima di tutto, sì, di tutelare, sì, le serre dell'umanità, di che tutelare di gente che cresce, che cresce soltanto imbottita di queste informazioni. I videogiochi, ci sono videogiochi dove i ragazzini imparano che si scende dalla macchina e si taglia la gola alla gente per strada. Io non ho fatto un coglione di 30 anni, un coglione di 30 anni che siccome si sente costretto nella sua abitazione taglia la gola a moglie e figli, ha giocato con i videogiochi di merda da quando avrà 6 anni, è stato abituato ad avere tutto quello che voleva avere, perché diversamente era un casino per tutti. Io sono padre di 3 figli e glielo posso garantire che questa è la cultura. In più questa cultura è continuamente alimentata dalla merda che ci propinate tutti i giorni. Bene, l'ha fatto il suo sermone? L'ha fatto il suo sermone? È contento del suo sermone? Io ho semplicemente letto, stia tranquillo, adesso parlo io, adesso parlo, ma non rompa le scatole con questa stupidità. Questo è, ho letto il verbale, ma che vergognarsi, ma la smetta. Marco, era il verbale di interrogatorio del signore che ha ammazzato i figli e la moglie. Non ho fatto nulla di più che leggere questo verbale di interrogatorio, che oggi è su tutti i giornali, in tutti i telegiornali, in tutte le trasmissioni. Ho letto semplicemente un passaggio, forse addirittura tutto il verbale di interrogatorio di questo tizio, punto. Non volevo fomentare nulla, ho letto il verbale di interrogatorio, punto. Lei sta fa schifo, cosa fa schifo, che se ne parli, cosa? Io ho avuto l'orripilazione quando lei ha detto questa cosa. Vabbè, lei è orripilato, benissimo, e lei è orripilato, pazienza, se me ne faccio una ragione che lei è rimasto orripilato, che cosa le devo dire? Lei è rimasto orripilato, anch'io sono rimasto orripilato, ma non dal fatto che l'ho detto, dalle parole che ho sentito. Ma so qual è il problema vero, problema vero è che io sono rimasto orripilato. Bene. E molta gente di 20 anni, sì, l'orripilazione che ha fatto? Non l'ha provato. E che ha fatto invece? No, non l'ho provato. Ma lei che fa? Il sociologo? Che fa? Il sociologo? Che fa lei? Che fa lei? Che fa lei? Lei che cosa fa? Il sociologo? Con i miei ragazzi, lo vedo tutti i giorni. Lo vede tutti i giorni. Cosa fa? Che mestiere? Ma che voi non ho capito, ma cosa vuol dire? La cultura cambia. 2014 in Italia. Ma si vergogni, cazzo. Ma di che parla? Ma di che sta a parlare? Io parlo, ma che ho detto? Io sono contrario alla pena di morte, capito? Fenomeno. Sono contrario, ha capito o no che sono contrario? Ha capito o no? Amnesty in tutto il mondo e veda che cos'è la pena di morte. No, pulitevi la bocca prima di parlare. Ma questo è impazzito. Ma questo è impazzito completamente. Cioè, completamente... Amico mio, io sono contrario alla pena di morte, chiaro? Sono contrario. Un'altra cazzo di dichiarazione, allora la devi fare. Basta. Ma cosa? Ma lo fa? Ma tu mi devi insegnare, a parte che tu non mi dici chi chiamo, chi non chiamo, come, cosa domando e cosa non domando, questo lo decido io, hai capito? Chiaro? Chiaro? Chiaro? No, va bene, sicuro, no, va bene. Io sono contrario alla pena di morte, ti basta o non ti basta? Ti basta o non ti basta? Mi basta, mi piacerebbe che un uomo di potere mediatico come te in questo momento potesse fare un pochino di cultura, un pochino di protezione. Qui non si fa cultura, qui non si fa qui non si fa cultura, qui non si fa cultura. A parte che io appena sento la parola cultura metto mano alla pistola, ma non si fa cultura in questa trasmissione, non è questione di cultura, guardi, non c'entra assolutamente nulla la cultura, qui non dobbiamo fare né gli educatori né gli insegnanti. Non me ne frega niente, questa è una trasmissione radiofonica, ha capito? Non è un centro di educazione, ha capito o no? È una pagliacciata, non la trasmissione radiofonica si è condotta così. Come? È una pagliacciata, si è condotta. E allora che cosa vuole che lo dica? Una pagliacciata, smettere di ascoltarla. Spettacolare, spettacolare. Io avevo un grande stabile, ero stabilmente sicuro. Sono tempi duri, non tanto per noi, ce ne frega niente, nulla, zero. Ma caro David, non abbiamo parlato di una cosa incredibile, c'è un senatore ex 5 Stelle, eletto però con i 5 Stelle, che si chiama Bartolomeo Pepe, che noi abbiamo conosciuto all'inizio di questa legislatura, quando ci disse al telefono che non sapeva nemmeno dov'era il Senato, che si chiamava Palazzo Madama, non so se ti ricordi, un battagliero senatore che l'avrebbe cercato su Google, se non ricordo male. Sì, no, col Tom in realtà. Sì, Bartolomeo Pepe, uno di quelli che accusò addirittura il Partito Democratico di essere un partito di assassini perché aveva inquinato la terra di Campania, eccetera, eccetera. Bartolomeo Pepe poi ha avuto una lunga diatriba con un altro senatore, con un altro parlamentare del 5 Stelle, fico quello della Commissione di Vigilanza Rai, e ha lasciato il Movimento 5 Stelle, eccetera, eccetera. Il signor Bartolomeo Pepe ieri sul suo profilo Facebook ha postato, come si dice in gergo, un pensiero, una considerazione da parte di un signore che si chiama Franceschetti, se non sbaglio, Franceschetti, un signore che fa il divulgatore, eccetera, eccetera, un esperto di occultismo, un esperto di esoterismo, il quale ha una sua teoria a proposito di quello che è avvenuto in Lombardia nel caso di Motta Visconti, per esempio, insomma, degli assassini di cui abbiamo avuto notizia. Senti qua, scrive questo signore, evidentemente condiviso dal senatore della Repubblica Bartolomeo Pepe: se per valutare un omicidio occorre guardare gli indizi, cominciando dal nome della mamma, Cristina Omes, anagramma della vicenda Mose che si svolge a Venezia, cioè questo signore pensa che la moglie uccisa da Lisso, non mi ricordo neppure, Omes, sia l'anagramma di Mose, capito? Si svolge a Venezia. Per finire al nome del paese, Motta Visconti, come quel Visconti che fece morte a Venezia, alla data, eccetera, eccetera, qui siamo sicuri che non si valuterà alcun indizio. Sarebbero questi gli indizi, secondo lui, cioè Cristina Omes, anagramma della vicenda Mose, Motta Visconti, quel Visconti che fece morte a Venezia. Ma prima o poi incastreranno il padre oppure un pazzo isolato che magari confesserà. Nonostante l'arma del delitto sia scomparsa, nonostante mancherà il movente, nonostante tutto, a parte che qui l'arma del delitto c'è e il movente sembra esserci, seppur folle. Ma è interessante questa cosa qui. Cioè, un senatore della Repubblica pensa, credo che condivida l'idea di un tale esperto di esoterismo che dice che gli indizi non sono quelli che hanno trovato gli investigatori, bensì il cognome di quella morta, che è anagramma della vicenda Mose, e il paese dove si sono svolti gli omicidi, cioè Motta Visconti, come quel Visconti che fece morte a Venezia, capito? Questo è un caso interessante. E siamo veramente al top. Ma questo è interessante per il professor Crepè, per Cancherini, cioè per gli psichiatri è interessante questo che dice, questo che condivide questo Pepe, ecco, questo bisogna dire più correttamente. Allora, un altro cretino dice: complimenti a Giuseppe Cruciani e David Parenzo, speculare su bambini uccisi dal padre facendo commentare Razzi, toccato il fondo. A parte toccato il fondo lo dico io e probabilmente non l'abbiamo ancora toccato, ma io faccio commentare questi fatti a chi voglio. cioè non do un giudizio, ho detto che ne pensa lei, ci vuole la pena di morte, non abbiamo commentato, cioè, ma di che stiamo parlando ragazzi, ma siete impazziti, ma questa qua non è, cioè non è il simposio dell'Università La Sapienza di Roma sugli omicidi o sul, cioè è la zanzara, è una discussione in cui entra di tutto, entrano anche queste cose, ma dov'è lo stupore, ma dico, ma sono pazzi. Dentro la terra mia suona un'ave Maria. Gli amici della zanzara di solito sono sempre molto seri. Sì, sì. Diego da Palermo, dai, no, anzi no, Maurizio da Milano, avanti. Allora, lei ieri ha espresso lo stesso concetto che sì. Ha espresso Lissi per se stesso, e cioè ha augurato a Lissi il carcere a vita proprio fino alla fine dei suoi giorni. Beh, sì, certo. Spero che uno che ha commesso questi omicidi faccia il carcere a vita, e questo carcere a vita deve essere veramente un carcere a vita. Punto. Ho detto semplicemente questo, non posso dire nemmeno questo? No, ma lei lo può dire. Non lo posso dire. Benissimo. No, ho detto il contrario, lei lo può dire. Sì. Solo che c'è un dettaglio, è la stessa cosa che ha detto il Lissi per se stesso. Ma il Lissi è un uomo che ha sterminato la famiglia per fare colpo sulla collega di lavoro. Di conseguenza è un pazzo, una persona completamente scriteriata. Dunque la sua opinione è una follia, e la sua opinione è la stessa opinione che ha espresso lei, dunque lei ieri ha espresso una follia. Lei la può esprimere, ma sappia che è una follia. Ma cosa è una follia? Cosa? Augurarsi il carcere a vita per una persona che peraltro lei non ha neanche fatto niente, sono fatti che neanche la riguardano. Non riesco a capire come mai si può augurare il male per io ho detto, un... Ma io non è il male, cioè io ho detto no, semplicemente... Questo qua ha confessato, sì. Ha detto di aver ammazzato due figli e la moglie. Posso augurarmi che faccia l'ergastolo? Che prenda l'ergastolo o no? Certo che può augurarsi. Le dico che è una follia. Ma cosa è una follia? Ma di che sta parlando? Di cosa sta parlando? Ha detto, ha espresso lo stesso concetto espresso da un pazzo. Ma poi c'è un'altra considerazione. Non ho capito, scusa, non ho capito questo passaggio, Maurizio. Scusa, Parenzo, tu hai capito o sono cretino io? Confuso, francamente. Ecco, meno male, sembro impazzito, no? Cioè, no, è un po' anche confuso. Per me è un po' confuso. Ecco, benissimo. Maurizio, si può spiegare bene, perché qui dobbiamo un po' aguzzare, no? Dobbiamo capire meglio. Altrimenti non si capisce una sega, la gente non capisce, hai capito? Durante l'interrogatorio ha detto voglio il massimo della pena. Sì, ma non me ne frega niente di quello che ha detto durante. Ma non me ne frega niente di quello che ha detto durante l'interrogatorio. Niente. Io faccio notare un'analogia tra le opinioni dell'Issi e la sua opinione. L'Issi è un pazzo, di conseguenza anche la sua opinione per quel che riguarda è destituita ogni fondamento. Benissimo, è arrivato. C'è un'altra considerazione. La gente è veramente matta. Ci ha trovato un'analogia tra quello che io dico, cioè che questo ci vuole l'ergastolo, e quello che ha detto l'omicida, che ha detto che vuole il massimo della pena. Lei ha trovato un'analogia. Vabbè, siamo alla follia. Certo, e queste analogie si trovano anche negli ergastolani, perché se lei poi va a chiedere agli ergastolani ma cosa ne pensa di questo e quest'altro, esprime lo stesso odio che ha espresso lei. Ma poi c'è anche un'ipocrisia di fondo quando lei dice io però sono contro la pena di morte, ma sono a favore del carcere a vita. Allora, premettendo che il carcere a vita è comunque una forma di pena di morte, perché si proibisce alla persona di quando ha finito la sua lezione filosofica, inutile lezione filosofica. Poi ci fa no, una... ma su questo ha ragione, perché è chiaro che l'ergastolo è fine pena mai. Questo ha ragione. Cioè, beh, a parte che l'ergastolo in Italia non è mai ergastolo fino in fondo. Viene combinato in alcuni casi per i reati di mafia, viene combinato, per esempio, ma non è questo il punto. Ha ragione che tecnicamente si chiama fine pena mai. Quindi su questo qui non è che sta dicendo una cosa. No, ma di che stiamo parlando? Non ho ancora capito di cosa stiamo parlando. Maurizio, di che parliamo? Io sto commentando quello che lei ha detto ieri, che secondo me è sbagliato. Benissimo. Grazie, Piero da Trapani. Piero? Sì, mi sentite? Sì, sentiamo, dica. E allora, io vorrei aprire una domanda a Parenzo, parlando di civiltà. Secondo voi, vi ricordate quel signore, mi sembra fosse della Finlandia? Chi? Quello che ho ucciso, non mi ricordo il paese del... Piero, innanzitutto sento male, non so se lei è in viva voce, se ha l'auricolare, ma in questo momento non mi interessa. Abbiamo con noi il mitologico Tommaso Cerno. Eccoci qui, Tommaso, come andiamo? Mitologico per età, intendi? Ma no, mitologico in generale, mitologico, sì. Mitologico, supremo, come vuoi che ti giudichi, supremo, mitologico per età, avrai 35-37 anni, quanto hai? 40, quanti ne hai? 39, tu 30, sei no. del 66. Ma io ce ne ho 46. Mi sono dato il cambio con Pasolini, lui moriva e io nascevo. A parte che Tommaso, io ne, scusami se te lo dico, ma ne dimostro meno di te. Diciamo, no, questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio, ma questo da molti anni, anche quando io ne avevo 18, tu adesso ne dimostreresti meno di me. Ma c'è un altro tizio che dice cosa non si fa per soldi audience, un tale Roberto Olivieri su Twitter, mi fa impazzire questa cosa qua. Cioè, secondo questi signori, mentre tutto il mondo parla degli omicidi di Milano, della vicenda di Yara Gambinasio, noi non dovremmo parlare, non dovremmo parlare, oppure dovremmo parlare in modo filosofico. È chiaro che facciamo scatenare anche... No, il sangue delle persone, quello che hanno dentro le persone, lo facciamo sempre su tutto, lo facciamo anche su questa cosa, cerchiamo ovviamente di limitarci, ma di cosa stiamo parlando? La gente è matta, la gente pensa che qui ma mettete su, che ne so, su Radio Radicale, su Radio Popolare, su Radio Vaticana, cioè mettete su questo, ma non rompeteci i coglioni a noi che vogliamo semplicemente discutere a modo nostro delle cose. Abbiamo chiamato uno, Cerno, un tale senatore che conosce bene, che si chiama Razzi, il quale ha detto che vuole la pena di morte per questo tizio che ha ammazzato i due bambini. Benissimo, non mi pare una cosa così scandalosa. Lo pensano anche i sassi, no? Cioè, di questa cosa qua. Ci sono molti paesi che, oltre che pensarlo, lo applicano. E beh, qui non c'è modo di dire, io sono contrario. Abbiamo detto. È un tema, come dire, che va sempre dibattuto con molta attenzione. Ma sì, ma c'è. Razzi, ma insomma, va bene, d'accordo, ma insomma, voglio dire, è pieno di leghisti che hanno detto per anni che ci vuole la pena di morte. Per... Come affidargli la guida della Treccani? Ho capito, ma è un senatore della Repubblica. Ma non pensa... è che è un senatore della Repubblica, è Razzi. Poi dopo sì, è anche senatore della Repubblica. Diciamo, io voglio sapere da Cerno perché questo mondiale è diventato molto frocio. Questo è il punto. Ma guarda, beh, intanto c'era stato il precedente delle Olimpiadi, no? Ti ricordi che erano stati un bel gay pride, quindi è un, come dire, un passaggio lento dello sport nella nuova generazione, perché come dicevamo prima, io sembro più vecchio di te, tu hai la tua età, ma questi che giocano sono degli anni 90, quindi sono figli di una cultura internazionale di rete che vede delle cose che noi vediamo froce come cose normali, no? Sono i cosiddetti, l'evoluzione di Beckham, no? Beckham era metrosessuale ed era in quel momento, rappresentava la massima avanguardia dell'uomo che diventava diverso dal machismo degli anni 80. Sì, però qui non c'è nessun coming out vero, ma come no, mai? Ma non serve il coming out, perché vedi, l'omosessualità non si manifesta soltanto nell'esserlo, ma anche nel vivere una cultura dove la differenza dei generi non è poi così enorme, e attraverso cose che sono degli eterosessuali, cioè l'omosessualità si manifesta di più nell'evoluzione degli eterosessuali che non dei gay. Infatti ho gay, capito. Vedi che come me sembrano molto più vecchi degli etero, come in questo caso Marchisio, marito ideale di ogni gay. Ma perché Marchisio, questa cosa qui, è marito ideale di ogni gay? Perché è un'icona gay Marchisio? Spiegami questa cosa, non essendo io omosessuale, ma essendo molto attento a questo mondo, molti mi dicono, Marchisio è un'icona gay, perché? Sì, perché Marchisio è bello, elegante, intelligente e quindi anche diverso dagli stessi calciatori nell'idea sbagliata che la gente ha dei calciatori, come ha l'idea sbagliata dei gay. Quindi è un punto d'incontro naturale tra l'omosessuale che cerca l'uomo bello e l'essere normale, il marito, il compagno, quindi sarebbe il compagno ideale di tutti i gay. Oggi ha anche detto che usa il contorno occhi e quindi in qualche maniera è più evoluto di me, che non l'ho mai usato. Ah, il contorno occhi ha detto, detto che siccome ha delle occhiaie molto pronunciate la moglie gli ha insegnato che bisogna curarsi esteticamente e che bisogna mettere delle creme idratanti, ma non una volta soltanto, ma tutti i giorni, e gli ha insegnato questa cultura del corpo che oggi i ragazzi hanno moltissimo, come le ragazze a volte anche di più, che porta Marchisio dentro un mondo diverso da quello dove vivevo io, che sono più grande di lui e dove invece queste cose erano considerate qualche cosa che gli uomini ma non quanto facevano. Daresti oggi sono diventate normali. Quanto daresti per uscire con Marchisio? Sto tentando di scommettere sui mondiali in modo tale da avere una quantità di denaro sufficiente per proporglielo, però lui poi ha denaro, perché è probabile che sia perché hai detto quanto gli dai, quanto daresti, nel senso quanto daresti in generale, cioè nel senso è un sogno erotico di molti omosessuali, però cosa vuoi, uscire con Marchisio per parlare è impossibile, dire, un po' inutile, quindi e trovarlo in una, che ne so, trovarlo in una dark room, perché lì non lo vedi, è più bello sul campo di calcio, solo che se faccio un'invasione di campo per prendere Marchisio, poi prendono me e finisco in un altro luogo che non preferisco frequentare almeno per ora. Un attimo solo che c'è la pubblicità, poi torniamo con Tommaso Cerno. Devo dire che non c'è, anche tra i giornalisti non ci sono molti di quelli che hanno fatto coming out. Anche qui c'è un po', ecco, questo vorrei sapere da Tommaso. Secondo me anche nel mondo dei giornalisti e della comunicazione, pur essendo diverso rispetto ai calciatori, rispetto magari ai militari o altri ancora, c'è anche qui coming out, ce ne dovrebbero essere di più. Ma che messaggio può dare una persona che parla da una radio dicendo quello che dice lei? Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei a cantare. Siamo ancora qui, siamo ancora qui. Siamo ancora qua, Simo. Ma secondo te, Parenzo, dovremmo togliere queste cose di Dell'Utri adesso che è in carcere, oppure per tenere viva l'attenzione su Dell'Utri bisogna lasciare queste frasette di Dell'Utri pronunciate? Calma. No, calma, calma, Marcello, dai, su. Sono Marcello. Un ricordo di quando partecipò alla nostra trasmissione, ricordo parte della storia. Sì, fanno parte della storia ormai. Allora, voglio dire a Tommaso Cerno, giornalista dell'Espresso, nostro ospite questa sera, gay dichiarato... No, vabbè, questo non che c'è. Neanche dichiararlo. No, vabbè, lo dico così per un'informazione in più, ma non ha nessuna rilevanza, figurati. Io sono la persona più aperta del mondo, che la pensa però come Cecchi Paone su coso, idolo gay, te lo dico, su Marchisio, idolo. Vabbè. Perché Cecchi Paone da etero la pensa come me, no? Lui adesso non è diventato etero dopo le elezioni. Beh, no, le elezioni aveva fatto finta di essere etero perché aveva fatto tutte quelle. Ah, ok, quindi è tornato gay. No, perché io non riesco più a seguirlo. Ma gay, dice che mi fa piacere. Vedi, quando è gay pensa delle cose giuste, infatti è d'accordo con me. Quando diventa etero fa quelle cose che ha fatto che poi non lo eleggono. Dice: in nazionale c'è un idolo dei gay e questo è Marchisio. La pensate? Beh, no, esattamente. È facile, perché chi conosce il mondo gay, abbiamo detto il motivo per cui Marchisio è diventato. Ma senti, ma tu che come dire, ti occupi molto anche di queste cose, di discriminazione nei confronti dei gay, hai visto l'intervista incredibile di Francesca Pascale sul Corriere del Mezzogiorno, in cui dice al centrodestra, ma addirittura alla Chiesa, basta con questi, con queste vecchie cose, con questi, no, con queste, certo. È come Marchisio, è un fatto anagrafico. Cioè? chi è nato dopo vive una infanzia dove impara prima di chi è adulto e vorrebbe insegnarglielo che il mondo cambia, e quindi lei è naturalmente omofila, mentre magari i suoi genitori hanno fatto molta più fatica ad esserlo. Sì, è vero. Così come i giocatori degli anni 90, che sono i nostri diciamo potenziali figli, non capiscono i loro genitori, non capiscono che problema esiste se quelli della Croazia fanno il bagno nudi, o se, come è successo dopo quella finale Siviglia-Benfica, il capitano bacia in bocca il suo compagno con la coppa in mano, e non lo capiscono perché non fa parte del mondo. In realtà tu che non ti intendi di calcio, il calcio non ti piace, hai visto il contorno occhi di Marchisio, il bagno in piscina dei croati, le magliette, com'è che le hai definite? Attillate. Sono magliette, diciamo, sporno-sessuali, è un termine che deriva, l'hanno inventato in Inghilterra, ed è la prosecuzione dei metrosessuali, cioè chi sono gli sporno-sessuali? Quelli che mostrano più nudità che vestiario vestendosi, quindi che mostrano i muscoli sotto le maglie, sì, ma è vero. Scandalo che mostrano il lato B come la Bacchitu, quelli lì si chiamano sporno-sessuali. Deriva da sport più sessuali. È vero che tutte queste magliette attillate che adesso ci sono sono molto gay, sono molto omosessuali. Perché in realtà riconoscono dell'uomo la propria essenza. Che cos'è l'omosessuale maschio? Uno che non ha bisogno della donna, quindi è uomo al 100%, talmente uomo che non ha bisogno, cioè, secondo della te donna. L'uomo 100% è quello che non ha bisogno della donna. Certo, quello che con la donna non ha niente a che fare, al limite la veste, no? Ma tu sei mai stato con una donna o no? Molte donne avrebbero voluto venire con me, io le capisco, però non ci sono stato, non per ragioni di coerenza, per ragioni di tempo probabilmente. Ma anche per ragioni di voglia, Ecco, forse anche di voglia, ma sai perché all'inizio tutti i gay tendono a dover andare con le donne, no? Perché prima di riconoscersi, sì, come vero, tutti gli altri lo fanno, ci vanno. Allora cosa succede? Che tu ci provi magari, capita che qualcuno ci vada anche per molto tempo, e dici, ma è questo il sesso? Ma allora perché tutti lo vogliono fare? Perché piace così tanto? Poi trovi l'uomo e dici, ah no, ecco perché piaceva, era questo il sesso. lì ti riconosci. Cioè, una volta che hai provato il sesso con un uomo, non l'abbandoni più. Questa è una vecchia cosa che si. Viceversa. Beh, ma anche se non sei gay, dicono anche come sarà capitato anche a te da piccolo di fare sesso magari con un tuo amico e poi beh, no, no, no, francamente no. Magari no, non lo so, dico magari a Parenzo, però poi mi dispiace darti una delusione, ma non mi è mai capitato. Secondo me a Parenzo è capitato invece. Una volta me l'hai raccontato, Davide. Ma non dire stupidate. Una volta me l'hai raccontato in un giardinetto, hai fatto sesso con un tuo coetaneo, maledetto, quando sei, ma sei scemo. Una volta me l'hai raccontato, mi ricordo che me l'hai raccontato. Stupidate. Lo direi, se fosse vero lo direi, ma è una stupidaggine. Ma sì, ma sai quelle toccatine, se no, Tommaso? Se vuoi dirlo per fare, come dire, 2 minuti d'ascolto in più, può anche dire. Ma oddio, costa 2 minuti d'ascolto in più. Ma è una stupidaggine assoluta. Quando dici una bugia, ma non è che mi arrabbia, hai detto una stupidaggine. Come senti, ma tu porteresti, euro notte, Tommaso, porteresti in tribunale l'avvocato Taormina per le sue affermazioni sui gay? Ma no, perché l'avvocato Taormina in tribunale c'è stato già abbastanza, quindi è inutile riportarlo. Dopodiché l'avvocato Taormina si parla di lui solo per queste affermazioni ultimamente, quindi io lo invito ad andare in tribunale a fare altro più che a fare l'avvocato, perché quando parla di, perché diciamo primum vivere deim de filosofare. Bravo. Dicevano, no? Senti, ma è vero che anche tra i giornalisti c'è una certa ritrosia a fare coming out, oppure no? Sì, ce n'è moltissima, perché i giornali, poi le redazioni sono dei luoghi molto reazionari, cioè i giornali che dovrebbero essere molto contemporanei, sì, tendono a essere più reazionari del loro paese. Guarda, adesso siamo ancora a Bersani, noi come giornali qui siamo già dopo Renzi, e quindi io, capisci, essendo, come dici tu, mitologico, ho vita più facile, ma uno terreno ha gli stessi problemi che ha un altro. Ecco, ma perché addirittura tu pensi che nei giornali ci sia molta gente che ha un problema a dire sì, sono omosessuale? Certo, ma perché i giornali sono, adesso magari stanno cambiando ultimamente, anche perché ormai, però i giornali hanno una gerarchia anche un po' da caserma, no? I giornali sono l'unica cosa rimasta con una gerarchia così rigida. Dentro la gerarchia, i rapporti personali, l'intimità, diciamo il proprio essere, non veniva svelato con molta facilità. Magari adesso capita un po' di più, anzi adesso capita il contrario, che ci sono le associazioni dei giornalisti gay. Sì. Poi tu vai a vedere e dici, ma questi non sono giornalisti, sono solo gay. Però loro scrivono e dicono, siamo giornalisti gay, per quelli sono solo gay. Io non ne ho mai visto uno che conoscevo. Va bene, grazie, ciao Tommaso, ciao. Non me moleste moschito. Parenzo, porta fuori i bambini, va. Porta fuori i bambini. Tappa le orecchie ai bambini. Cosa devono fare adesso i bambini che sono in macchina? Ma che porcherie devi far sentire? No, devo fare sentire una canzone super virale. Super virale, super virale. La faccio solo ascoltare. Una canzone super virale, mitologica. Oggi citata da Dagospia. Una tale Diana del Bufalo, cantante, musicista, youtuber, molto giovane, promessa musicale italiana. Ha frequentato, credo, Amici o cose di questo tipo. Beh, siamo al top, senti. È arrivata l'estate, bikini, sole, mare. Le ragazze si preparano a brillare. Spendono un occhio nella testa dalle secondo me devono andare dall'analista. Tutto questo per farsi una dolorosissima ceretta. Io invece ce l'ho pelosa. Fanculo gli stereotipi sulle riviste. Ce l'ho pelosa. Fanculo quelle acide delle. Siamo al top, devo dire che siamo al top, Parenzo, con questa cosa qui, Ma siamo... musicalmente è buona, cioè è brava dal punto di vista degli accordi, no? Come no, ma è anche il testo, anche se ci pensi, no? Cioè, questa ragazza giovane dice basta con queste fissazioni. No, ho capito il testo. Per l'estetica, eccetera. Io ce l'ho fatta in un certo modo. Tra l'altro, apro parentesi. A me mi piace da morire, questa roba. Comunque, vabbè, questa lasciamo perdere, questa è la parentesi. E dice, capito, basta con questo estetismo, eccetera, siate nature. Questo viene fatto adesso, riproposto, e ascoltare perché, diciamo, perché è una cosa che riguarda i giovani, è un fenomeno nuovo che nasce, e in questa trasmissione non ci sono solo tromboni che parlano, non ci sono solo vecchi che parlano, c'è anche una grande apertura nei confronti di quello che avviene tra i giovani, c'è alto, basso, medio, sopra, sotto, tutto entra. Understand. No, understand, questa è un'altra cosa. Io invece ce l'ho pelosa. Fanculo gli stereotipi sulle... Maurizio da Milano, fra poco grande collegamento, se riusciamo a prendere la linea, Maurizio da Milano. Sì, buonasera. Dimmi. Niente, volevo soltanto dire che non sono molto d'accordo sulle vostre teorie, capisco che... Quali teorie? Qui non abbiamo teorie noi. La teoria del essere contro la pena di morte a priori. Cioè, io penso che la peggior pena per questo signore sarebbe stata quella di stare in galera a grocciolarsi tutta la vita per pensare a quello che ha fatto. Ma nella maniera in cui l'ha fatta, secondo lei lo farebbe? Ma no, ma probabilmente... Secondo me no, perché non ha, ma non ha morale, non ha niente. Non ha, nella vita uno ha un jolly, sì. Lui se l'è giocato. Basta, è chiuso il discorso. Non ha... Qual è il jolly che si è giocato? Scusa, perché non ho capito. Il jolly è che chi tocca gli anziani e i bambini non ha diritto di stare tra gli esseri umani. E dunque? Perché non è un essere umano. Conseguenza? Via. Lo metti su una bella sediolina, sì, metallo, sì, con dei filuzzi attaccati. Ah, ecco, sì, sì. Tiri la leva e buonanotte al secchio. Ma non ha diritto, ma ragazzi, ma capoco. Non doveva neanche... Un attimo, fermo. Pronto. Ministro Cancellieri? Sì, chi parla? È la Zanzara, Cruciani, buonasera. Ah, buonasera. Come sta? Come ne sta? Una mazzata. Ma cosa? Che è successo? Arriva questa mazzata di testo e ora questo cuccio terribile, ingrata patria, non avrai le mie ossa. Ma scusi, che sta parlando, ministro? Non ho capito. Ma come non sa? Dal Brasile arrivano notizie disastrose. Ma come disastrose? Abbiamo vinto la partita con l'Inghilterra, quali sono le notizie disastrose? Scusi, Buffon non recupera. Ma chi se ne frega di Buffon? Peggio, molto peggio. Ma che è successo? E com'è che è successo? De Rossi non sollera, problemi alla cervicale, guardi che venerdì è alla porta, quindi il Costa Rica è una partita difficile. Capito, ministro, ma è possibile che lei, Parenzo, non fa altro che pensare a queste robe qui? Voglio dire, ex ministro, scusi, ma ci sono delle notizie... No, ministro, si dice sempre ministro. No, ex ministro, onorevole. Ma sentite, guardate, sono stata... Ma l'abbiamo vista l'altro giorno alla convention di Passera, l'altro giorno, siamo cancellieri. Ma che Passera, ma di Passera non ne frega niente. Ma come gliene frega niente? Era lì in prima fila. Ma non bisogna, in questo momento quello che mi interessa è soprattutto De Rossi e la sua cervicale, ecco. Mi auguro che stia bene, questa è una cosa assolutamente importante, importantissima, ecco. Certo. Adesso sta arrivando Lanza, dicono che sta meglio. Ah, oh, che bella notizia, si è allenato, ecco, però resta un problema irrisolto che bisogna assolutamente trovare. Qual è? Allora, adesso gli alberi, quando ci sono le punizioni, usano la schiuma da barba, giusto? Sì. Ecco, allora... guardi, io non dico che Paletta bisogna sterminarlo, ma almeno contenerlo. Ecco. E in che modo, scusi, contenere Paletta? Ma con la schiuma da barba gli vogliamo fare barba ai capelli, soprattutto i capelli? Ecco, ma non ce l'hai i capelli quasi, è mezzo pelato? Vabbè, appunto, è meglio fare un lavoro completo. Senza De Rossi e con Paletta gli ascolti femminili crollano. Fatemi fare una serenata a De Rossi. Posso? Faccia. Bello impossibile, che Barbarossa e lo sguardo micidiale. Bello invincibile, cazzini azzurri e il suo gioco che spaziale. Quando mi piace sto petto virgo. Questo da quando non è più ministro, Parenzo? Da quando non è più... No, anche quando era ministro. Questo è da brava. Quando non è più ministro, non c'è niente da fare, si è scatenata. Ministro, grazie, buona serata. Buonasera, arrivederci. Giuseppe da Treviso, vai Giuseppe, mamma mia ragazzi. Io volevo dire una cosa, volevo appunto, a parte esprimere il mio sdegno per quello che è successo per quella famiglia di quel matto che ha ammazzato moglie e figli, però succede anche uno dei grandi problemi che abbiamo in Italia, oltre alla pena che non viene mai scontata, è anche il Vaticano. In che senso il problema del Vaticano, scusi? Il Vaticano, noi avendo il Vaticano in Italia purtroppo tante cose sono bloccate, c'è troppa, come si dice... Perdonismo, troppo buonismo, dice lei, troppo buonismo. No. Carlo da Roma, per concludere, Carlo veloce. Ma sì. Non eravamo con Maurizio da Milano, Maurizio, lei ha concluso pure lei? Maurizio! Non c'è, Carlo, vai, Carlo. Buonasera. Dimmi. Sentite? Veloce, rapido. Sì. Allora, è rapido, io volevo riferirmi. Ho capito, che dobbiamo fare? Vabbè, okay, volevo riferirmi a quanto erroneamente affermato da Parenzo. Su che? Relativamente agli immigrati, in quanto sono possibili portatori di malattie. Invece due secondo lei è vero? E direi proprio di sì, perché i 2 milioni di ascoltatori della Zanzara, vabbè, allora... sapere Allora, dovrebbero sapere che gli addetti ai lavori all'accoglienza degli immigrati non segnalano la presenza di malattie. Vabbè, però ci dobbiamo sentire domani, ragazzi. 18:30, La Zanzara. Ciao. Sai che La Zanzara è seguito in tutto il mondo, e da Boston in America lo stanno adesso in diretta a sentire a noi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente La Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti posso dire una cosa? Scurnacchiato. Radio 24. La passione si sente.